E questa è Visionari, buon pomeriggio a tutti e a tutte, 14, 2 minuti primi, giovedì 11 giugno del 2009. 87.900, la modulazione di frequenza, come ha già anticipato poc'anzi, delle informazioni relative alla trasmissione potete trovarle sul sito della radio, ossia ondarossa.info. Invece noi andiamo intanto ad ascoltare, a metterci in contatto con i nostri ospiti. Pomeriggio Giacomo Faenza, regista del documentario Caro Parlamento, eccoci qui. Buon pomeriggio a tutti. Come va? Bene, grazie, fa caldo. Oh, ce la facciamo finalmente, anche perché era un po' che ti stavo inseguendo. Ecco. Allora, intanto complimenti per il documentario, l'ho visto, l'ho apprezzato, e per chi ci ascolta raccontaci un po' l'argomento. Dunque, ho intervistato 158 lavoratori e non disoccupati in tutta Italia per cercare di fare un po' il punto della situazione sulla questione lavoro, cioè se arriviamo a fine mese, come ci arriviamo, a chi chiediamo aiuto. E si intitola Caro Parlamento perché mi sembra, la sensazione è che ci sia una voragine tra le istituzioni e i giovani, cioè noi non dialoghiamo più con le istituzioni. In realtà il Parlamento, a leggere la Costituzione, è l'unico che ci può salvare la pelle, questa è la tesi che io sostengo. E il Parlamento dovrebbe però, certo, fare il Parlamento, non essere, come dire, il lacchè di un miliardario che fa come gli pare. Il Parlamento, noi abbiamo bisogno del Parlamento, insomma, dobbiamo. È come se fosse un pugile suonato attualmente e noi dobbiamo credere in lui, allenarlo e farlo ridiventare il campione che era. Oh, come traccia ti sei mosso sulla falsariga di alcuni articoli della Costituzione italiana relativi proprio al mondo del lavoro. Certo, sono quelli che parlano di lavoro, ma la Costituzione italiana, se tu la leggi, la prima frase ti lascia già a bocca aperta. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Io stesso sono un illustre precario, adesso per dire sto facendo un lavoretto estivo, ma non. Insomma, è fondata sul lavoro. Quando poi tocchi il fondo, se non hai una lira in tasca, un euro in tasca, e hai lavorato tanto però, e ti domandi ma com'è possibile tutto questo? Poi c'è l'articolo 36 che dice che ogni lavoratore deve avere una paga che è sufficiente a fargli vivere una vita libera e dignitosa a sé e alla propria famiglia, il che indirettamente sta dicendo che devi essere in grado di mettere su una famiglia. E io, nelle domande che ho fatto ai giovani tra i 20 e i 40 anni, viene fuori che molti non ci pensano neanche a mettere su famiglia, perché non arrivano loro stessi a fine mese come potrebbero avere un figlio. Quindi diciamo, è stata un po' ottimista la nostra carta costituzionale, però è giusto che sia così, insomma, è giusto puntare al massimo. È giusto. Hai detto della fascia oraria, e le interviste le hai fatte anche andando da nord a sud, un po' coprendo tutta la penisola, e una delle cose che mi ha impressionato, oltre al disincanto e il pessimismo diffuso, è anche che rispetto al lavoro, quello che sta succedendo e che succede da tempo è che aumenta il periodo di, cioè, nel senso, il proprio tempo che uno dedica al lavoro, e di pari passo invece diminuisce il salario. Sì, cioè, abbiamo meno tempo libero, lavoriamo di più e per guadagnare di meno. Questo è quello che sta succedendo, insomma, per chi lavora. Sì, da quel che ho capito. Ora, io non sono un esperto di lavoro, di diritto del lavoro, non sono un sindacalista né nulla. Sono un giovane che credeva di poter fare delle cose, guadagnare 2 lire e poi fare altre cose, invece si ritrova dopo 5 anni a fare le stesse cose con lo stesso stipendio. Per dire, io adesso sto lavorando a una trasmissione Rai, faccio il collaboratore ai testi, che non è, cioè quasi fai le fotocopie, poco ci manca. E detto questo, il punto sembra di aver capito che se non lo accetti tu quel lavoro, lo accetta un altro a quella cifra. Sì, sì. Quindi è una sorta di corsa al ribasso, al sacro, sì, nel senso non, mancando completamente. Sì, esatto, è una selva nella quale questo tipo di leggi permette di pescare chi dice di sì e via, e andare avanti con chi dice di sì, ma per non parlare degli stage, che ci sono aziende che vanno avanti con stagisti che non pagano, non assumono, perché una volta finito lo stage ti mettono alla porta e prendono un altro. Ora anche l'azienda avrà i suoi come dire limiti in questo caso, perché poi non ha una persona che cresce all'interno dell'azienda che possa dare indietro ciò che ha imparato, no? Ogni volta si rinizia da zero. E è chiaro che va fatta una riforma seria delle leggi sul lavoro, chiarissima, perché il precariato in sé per sé non è una cosa negativa, però se poi non c'è un ammortizzatore sociale che ti consente di fare dei lavori di 2-3 giorni, allora diventa ricatto. Eh sì. E se diventa ricatto, tu diventi un cittadino ricattabile, e se diventi un cittadino ricattabile la democrazia è a rischio. Perché poi è un semplice sillogismo, cioè se l'Italia è fondata, se la Repubblica Democratica è fondata sul lavoro e oggi il lavoro o non c'è direttamente oppure c'è ma non ti dà nessuna garanzia, necessariamente la democrazia è a rischio. Ce lo dicono i costituenti. E nessuno parla di lavoro oggi in Parlamento, cioè non c'è una commissione io non leggo sui giornali il problema del lavoro, leggo che il problema sono i tornelli nei ministeri, sono lo sbarramento al 5% alle europee, sono veramente le mega cavolate che i giornali stessi mettono in prima pagina. C'è un problema anche di comunicazione, di editoria, stiamo affondando. Oh, Giacomo, come ti dicevo prima, il panorama è desolante a vedere le interviste, a sentire tutte le persone che hai intervistato. C'è un profondo e amaro senso di disillusione, ma non c'è neanche una prospettiva di non so, di auto-organizzazione o qualche pensiero per far capo a questa situazione. È un'ottima domanda la tua, perché emerge effettivamente l'incapacità della nostra generazione, cioè tra i 20 e i 40 anni, la prendo proprio ampia, sì, di concepirsi all'interno di una collettività, di sì, ragionare come una collettività, eccetera, sì, eccetera. Esatto. Ognuno sta a casa sua col suo problema, che vedendo il documentario ti rendi conto che quello che volevo cercare di dire è che siamo tutti sulla stessa barca, da Palermo a Vicenza. Eppure, ciò nonostante, per noi è molto difficile farci sentire, far sapere quali sono i nostri problemi, e questo documentario voleva provare a farlo, ma secondo me poi alla fine non è che ci è riuscito tanto. Sì, ho avuto la lettera di complimenti del Presidente della Repubblica, l'emerito Presidente Scalfaro è venuto a presentarlo a Roma 3, il TG3 ne ha parlato, eccetera eccetera, ma questo è un lavoro che doveva andare in televisione in teoria. Cioè, mi hanno detto che in Francia un lavoro del genere era già andato sul canale nazionale in prima serata, perché sì, era un lavoro sociologico, antropologico, cioè fatto col cuore, fatto senza divismi, cioè è un lavoro utile alla società, mettiamola così. Sì. A una società che però vuole ragionare su se stessa, vuole tentare di uscire da uno stagno, eccetera eccetera, allora sì. Ma se ci vuole restare, questo non è il lavoro giusto, ecco, capisco perché non lo mandano in onda allora a questo punto, perché non fa sconti a nessuno, sindacati compresi, perché se siamo arrivati a questo, i sindacati hanno delle responsabilità enormi, perché il sindacato che rappresenta i lavoratori ha rappresentato solo alcuni lavoratori, cioè quelli che il lavoro già ce l'avevano, e si è dimenticato di chi doveva entrare nel mondo del lavoro. Risultato che a 10 anni da legge Biagi e Company, il pacchetto Treu del 97 eccetera, cioè tutto quel tentativo di mettere mano al sistema del lavoro, e fa sì che oggi noi siamo ricattabilissimi, noi che entriamo nel mondo del lavoro, e non sappiamo come fare, anche perché, spiega una delle intervistate, se noi cambiamo lavoro in continuazione non abbiamo neanche modo di diventare una, come dire, di avere una coscienza di classe, no? di confrontarsi, di, capito? Sei un, se passi di qua, di là, da una, quell'esperienza lavorativa, poi un'altra, eccetera, e non parli, non ti chiudi. Senti Giacomo, quando è stato proiettato per la prima volta, e poi volevo chiederti anche un po' come sono andate le proiezioni, se ce ne saranno prossime prossimamente, e se c'è anche la possibilità di informazioni in un sito, su un sito internet, per saperne di più. Guarda, ormai oggi non è quasi inutile dirle queste cose per radio, nel senso, se uno vuole informarsi va su Google, digita Caro Parlamento, okay, e okay, esce di tutto. Okay. Detto questo, è stato presentato a Terni a ottobre, sì, al cinema, al Festival Cinema e barra e Lavoro, e poi sto preparando delle proiezioni in sedi universitarie. Allora, è già stato fatto a Roma con Scalfaro, lo faremo, era interessata la Sapienza a farlo, alla facoltà di lettere, vedremo se riusciamo a organizzarlo a Urbino vogliono farlo, alla facoltà di sociologia. Insomma, come vedi, è una cosa che non ha una data di scadenza, ahimè, sì, perché sì, finché ci saranno questi problemi, questo documentario sarà, come dire, attuale, e quando li avremo risolti sarà un documento storico da archiviare, insomma, per vedere da dove veniamo. Senti, le reazioni del pubblico? Scioccati. Il pubblico, cosa vuoi che vedo, sì, un lavoro, sì, del genere, se gli dai un pugno nello stomaco gli fai meno male, perché un'altra cosa che fa questo documentario è, io chiedo quali sono le nostre responsabilità, perché un conto è dire vabbè, colpa di quello, colpa dell'altro, ma siccome qui il paese tra 20 anni lo gestiamo noi e sarà proprio tutto sulle nostre spalle, sarà bene che anche noi decidiamo un po', insomma, ci assumiamo delle responsabilità, una delle quali è cercare di capire dove abbiamo sbagliato noi, e certo vengono fuori, insomma, delle lacune anche culturali nostre, cioè noi non abbiamo partecipato a nulla, non ci siamo fatti sentire. In Francia bloccano il paese quando c'è una legge che non riguarda necessariamente una categoria, eh? Sì, tutti decidono, che perché capiscono che se la casa del vicino brucia, la cosa ti riguarda, come diceva Ovidio. Se brucia la casa del vicino, è chiaro che dopo arriveranno a te le fiamme, cioè, e questo noi non lo capiremo mai, perché siamo un paese. Io ho un passaporto americano e temo che lo userò molto presto, sai? Lo userò molto presto. Giacomo, ti ringrazio, in bocca al lupo, e spero di risentirti presto. Va bene, a presto, e grazie dell'ospitalità. Un abbraccio. Ciao. Giacomo Faenza, regista del documentario Caro Parlamento, e noi andiamo avanti per parlare di festival stavolta. pomeriggio. Buon pomeriggio a te, ben ritrovato. Sì, altrettanto chiaramente. Allora, noi ci eravamo sentiti per Divergenti in quel di Bologna, festival di cui tu hai curato la programmazione, e in questo caso parliamo di una costola di Divergenti che arriverà a Roma in vista del Pride. Possiamo parlare di una Divergenti romana, di una vacanza romana. Una vacanza romana. Allora, la giornata è quella di oggi. Sì, esatto. Al nuovo cinema Aquila. Esatto, alle 17:30 comincia il tutto con una presentazione e abbiamo, diciamo, portato un po' di cose, ovviamente essendo solo una giornata non potevamo portare molte cose, però sì. È secondo me un assaggio molto interessante, anche perché il cinema trans, ovviamente, come molti altri tipi di cinema, è un cinema di settore, sì. Ed è un settore che sta crescendo molto. Tra l'altro Bologna, il festival è andato molto bene, per cui sono anche molto contenta di questo, con un aumento di pubblico notevole, e questo è fondamentale perché poi, come sai, Divergenti è nato soprattutto per debellare, diciamo, e cambiare un po', no, lo stereotipo che si ha della persona trans, travestita, transgender. E facendo vedere queste opere, secondo me, ci si riesce. Quindi spero che sia una bella giornata anche per Roma, insomma. Bene. Oh, per quali opere avete optato qui a Roma? Allora, abbiamo cercato di toccare un po' vari temi, sì. E anche vari paesi, perché è importante, insomma, capire un po' le varie realtà nel mondo, no? E quindi, dunque, c'è un film israeliano, sì. Del 2007, che si chiama Mom, I Didn't Kill Your Daughter, Mamma non ho ucciso tua figlia, che è molto interessante perché è un mediometraggio, nel senso che dura 50 minuti, di una storia vera, molto intima, anche abbastanza provocatrice, insomma, di una coppia che fa di tutto, e lotta anche molto, in maniera molto determinata per essere quello che è, nel senso che sia Lior che Yoav sono nate femmine, e però fin da piccole hanno avuto questo forte desiderio, di raggiungere la propria identità maschile. Ci hanno lavorato molto, ci sono riuscite, ed è un documentario che affronta anche, insomma, gli ostacoli con molto humor, e poi il fatto che sia una coppia molto particolare, per cui è un bel mediometraggio da vedere. Bene. Poi c'è un altro, adesso non te le dico in ordine, nel senso che, appunto, sì, non, sì, non di programmazione, però ecco, ti dico che parlando di un altro mediometraggio che è assolutamente da non perdere, è un mediometraggio italiano, si chiama Giorgio / A, Storia di una voce, è del 2006 ed è di Gianfranco Mingozzi. Chi conosce il cinema sa che è un grande regista, no, di televisione, di cinema, ed è un documentario molto particolare, molto bello, perché racconta la vicenda, o le vicende, possiamo dire, personali, e la vita artistica di George O'Brien. Giorgio O'Brien, nata Giorgio, per questo la parentesi, e la barra, scusami, che è nata a Palermo nel 1930, poi è diventata una grande regina dell'avant spettacolo tra Roma e Parigi, insomma, una storia straordinaria. Poi, la cosa meravigliosa di lei è che praticamente lei aveva una voce incredibile da soprano, sì. E giocava sul fatto di avere anche una voce da tenore. Per cui su questa cosa c'ha molto, come dire, ha costruito molto il suo personaggio. Purtroppo lei è scomparsa nel 2004, però in questo documentario esce tutto il suo brio, insomma, tutta la sua eleganza, è da vedere. Poi c'è un cortometraggio molto molto carino che si chiama No Bikini, di Claudia Morgato Escaniglia, che è una regista che è veramente molto eclettica. Lei ha fatto moltissimo, ed è un corto molto piccolo, quindi non vi dico di che si tratta, ma diciamo che ha una sorpresa finale molto particolare, anche un po' sul discorso della destabilizzare un po' il genere. Sì. Altri film che saranno proiettati, c'è un corto brasiliano, ma ecco, il film di prima, scusami, No Bikini, viene dal Canada, invece Los Zapatos d'Aristeu, le scarpe di Aristeo, è un corto brasiliano, praticamente non è, è stato dato solo a, a Divergenti, sì, quindi una novità, ed è un film del 2008, una bella sorpresa, ti dirò, un film in bianco e nero, una fotografia molto, molto raffinata sul bianco, ed è, dura 17 minuti ed è sul desiderio, diciamo, di su un desiderio che non viene come dire realizzato neanche quando una persona non c'è più, ecco, è un po', mm-hmm, è molto particolare. Un altro film brasiliano, sempre restando in questo paese, è un film molto importante che abbiamo dato come prima a Bologna, che si chiama Bombadeira, del 2007, di Luis Carlos de Alencar, e questo è un lungometraggio. E la Bombadeira è il personaggio che diciamo pompa il silicone alle trans direttamente sotto pelle. Sì. È una pratica rischiosa. Che, molto rischiosa, diffusa tra l'altro in Brasile, perché è, come dire, una pratica fatta da se stessi, no? Quindi senza nessuna norma igienico-sanitaria, e questo per soddisfare, diciamo così, il desiderio di un corpo più femminile, più provocante. E è molto interessante perché tra l'altro il MIT su questo tema ha fatto anche degli interventi, delle ricerche, per cui è una cosa da far conoscere. Bene. Corto, vuoi che continuo? Ti dico gli ultimi due? Sì, sì, sì, chiudiamo con gli ultimi due. Sì. Esatto, un cortometraggio che si chiama The Bond, americano, Stati Uniti, di Michael Connell, 10 minuti, molto carino, perché praticamente c'è un papà che si chiede come puoi allevare un bambino transessuale e non saperlo. Qui, ecco, questo è fondamentale, appunto, cioè essere onesti con se stessi e quindi poi vedere, insomma, come si sviluppa la cosa, sì, no? Sì, sì, mettendosi, sì, anche in discussione ovviamente come padre, come tutto. Sì. E poi il film che daremo, che è quello che ha vinto a Bologna il premio del pubblico come miglior lungometraggio. Quindi una garanzia. No, ma è veramente, guarda, è un film che è piaciuto tantissimo. Infatti io l'ho voluto fortemente. Si chiama L'Or de Mon, mm-hmm, un film francese del 2007 di Cynthiarra e Melissarra, un lungometraggio di 75 minuti, comincia proprio con una frase che dice: siete parte della razza umana se siete né uomo né donna, e questo film, diciamo, allo scopo di dare alle persone trans la possibilità di una voce. Lo fa molto molto bene, nel senso che riesce a tirar fuori sia da persone trans che da persone intersex, quindi tocca questo tema molto importante, anche dei racconti molto molto duri, molto crudi, ma li tira fuori con un'eleganza molto particolare, per cui segui questo film con un interesse profondo, insomma. E la cosa importante di questo film da dire e che praticamente è un documentario che osserva criticamente i protocolli medici che spesso sono usati arbitrariamente, in questo caso in Francia ma anche in Italia, e racconta anche tutta la storia del movimento transessuale, non solo, ma quindi anche del movimento gay trans, sulla denuncia della psichiatria forzata, perché sì, purtroppo c'è ancora questa cosa, per cui che è più diffusa di quanto si pensi, diciamo. Ecco, questa è la giornata Divergenti romana che credo che copra abbastanza bene un po' come cosa è stato il festival a Bologna, ecco. Ok, allora ricordiamo l'appuntamento al nuovo Cinema Aquila a partire dalle ore 17:30. Ok, tu ci sarai? Io purtroppo no, perché è un giovedì e a Bologna devo lavorare, però ci sarà Porpora del MIT e altre, insomma, okay, che spiegheranno il tutto. Ok, allora Luchi, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille e un abbraccio anche a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Thank you. pomeriggio a Deborah Young, direttrice della 55esima edizione del Taormina Film Fest in Sicilia, dal 13 al 20 giugno, ben trovata. Grazie, buongiorno. Che insomma, parlando del Taormina, bisogna dire che da quest'anno c'è la formula in Sicilia perché si svolge in più luoghi. Infatti quest'anno diventiamo un festival molto più grande, con il doppio del numero di film, sì, e 4 volte più città. Abbiamo fatto questa scelta non solo per incrementare il turismo in Sicilia, ma anche per trovare più schermi per le nostre rassegne, che sono veramente belle e molto interessanti. In ogni città avrà una sua rassegna individuale, come sì, la Giovane Commedia Americana a Palermo, una festa Brasile con il Cinema Nuovo di Brasile a Siracusa, e una rassegna di donne forti a Palma di Montechiaro. Sì. Allora, facci una panoramica più ravvicinata a questo punto. Su si può fare, perché siamo a 2 giorni dal festival, allora esatto, finalmente sappiamo delle cose molto, molto, molto importanti su sì, i nostri ospiti. Soprattutto voglio sottolineare che quest'anno avremo con noi grandissimi ospiti, soprattutto dalla Francia, perché Francia è il nostro ospite d'onore del Mediterraneo. Ogni anno abbiamo un paese ospite, sì, e in questa occasione presenteremo il nostro premio più prestigioso, il Taormina Arte Award, a Dominique Sanda, la protagonista di Novecento, il conformista Giardino dei Finzi Contini, e alla famosissima leggenda, diciamo una leggenda del cinema francese, Catherine Deneuve. Sì. Questo succederà il 18 e il 19 giugno a Taormina, e il 20 giugno invece il premio Taormina Arte Award andrà a Jessica Lange, la protagonista di King Kong, Il Postino Suona Sempre 2 volte e tantissimi altri film, compreso il suo nuovissimo film in anteprima, Grey Gardens, sulla vita delle 2 cugine eccentriche di Jacqueline Kennedy. È un appuntamento veramente importante, perché è l'anteprima di un film americano a Taormina. Quindi film da tutto il mondo, numerosi ospiti, che aggiungi a questo assaggio che ci stai dando? Tantissime lezioni di cinema, tantissimi sì, sì, campus. Aspettiamo un minimo di 600 ragazzi da tutte le università della Sicilia che piombano su Taormina per seguire queste lezioni veramente interessanti con i protagonisti giovani del cinema italiano, ma anche le lezioni di cinema dai maestri, da masterclass. Persone come Massimo Ranieri sarà presente a Taormina per parlare della sua esperienza come attore, l'arte di recitare. Avremo Fanny Ardant, la grande attrice francese, che parlerà in dialogo con Hugh Hudson, il regista di Chariots of Fire e Revolution Revisited, che chiude il nostro festival. Avremo una chicca molto molto carina, Emmanuel Ungaro, il grande stilista francese, sì, che viene a Taormina a parlare del rapporto tra cinema e moda. E ci sono queste lezioni a campus ogni mattina, allora chi vuole assistere basta venire a Taormina, le porte sono aperte a tutti e saremo molto lieti ad accogliere chi vuole venire ad assistere a queste cose. Bene, Deborah, allora ti chiedo in chiusura, c'è qualche titolo in particolare di cui sei particolarmente fiera, sei orgogliosa di averlo nel tuo festival? Well, qui arriviamo a toccare a toccare una notte di me come critico cinematografico, perché io sono anche critico. Bene. E sto pensando, a me piacciono tutti i nostri film in concorso, sì, concorso Mediterraneo e Beyond. Allora, invece di dire uno in concorso, parlerò di un film che si vedrà il 18 giugno a Taormina al Teatro Antico, sì, e che è veramente un film molto speciale. Non so se ricorda la famosa suora che cantava negli anni 60, che era più famosa dei Beatles in un certo momento, perché ha fatto una canzone che si chiama Dominique. Dominique, Nica, Nica. Questa storia è raccontata da un regista, Steen Konecz, con una interpretazione di Cécile de France, un'attrice francese belga, e parla proprio della storia della suora Luc Gabriel, come lei è diventata famosissima cantando Dominique e poi come ha ribellato contro la Chiesa, uscita dalla Chiesa e tutta la sua vita, che infatti è finita un po' in tragedia. Ma è un film che si chiama Sister Smile. Questa è la mia scelta di... Okay. Se devo scegliere un film, scelgo questo. Deborah, in chiusura, allora dacci anche se c'è un sito di riferimento per controllare il programma. Certo, ma basta guardare www.taorminafilmfest.it e abbiamo tutto il programma. Bene. Un okay. abbraccio e in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao, bene, ciao, ciao. Grazie. Deborah Young, direttrice della 55esima edizione del Taormina Film Fest in Sicilia, 13-20 giugno. Stefano Martina, che ci parlerà del suo festival Arcipelago. Buon pomeriggio a tutti. Come stai? Come sempre il giorno prima. Allora, 17esima edizione del Festival di Cortometraggi e Nuove Immagini a Roma dal 12 al 18 giugno, facci una panoramica. Presto detto, la 17esima edizione, per noi che non siamo scaramantici e non crediamo nella sfortuna, è intitolata, diciamo, in gran parte ai cortometraggi italiani e ai loro protagonisti, in particolare appunto un attore, il regista, che è un protagonista del cinema italiano come Valerio Mastandrea, che è sicuramente l'attore che ha fatto, interpretato più cortometraggi in Italia con grande generosità e passione, ne ha anche diretto uno e si appresta a dirigere il suo secondo cortometraggio nei prossimi mesi. E abbiamo dedicato, insomma, a questa maschera del cinema italiano, assolutamente sui generis, eccetera, questa personale breve, diciamo così, del cinema, incentrata sul suo cinema breve. Parallelamente abbiamo invece due registi gemelli, i fratelli De Serio, Massimiliano e Gianluca, torinesi, che hanno alle spalle già un ottimo curriculum di corti e di premi ai loro corti, si apprestano a girare il loro primo lungometraggio, hanno un linguaggio, delle tematiche, un approccio al racconto cinematografico estremamente interessante, e ci sembrava giusto quest'anno dedicare a loro la prima personale della loro carriera. Senti, com'è il genere? Come c'è fermento? Come hai fatto rispetto agli altri anni, insomma, che considerazioni hai fatto? Ma guarda, sui 1600 cortometraggi e passa che abbiamo visto, di cui 1200 circa stranieri, quindi nettamente di più degli italiani, abbiamo come sempre avuto difficoltà nella scelta, nel senso che spesso abbiamo dovuto rinunciare a corti anche molto belli, perché effettivamente c'è troppo. La qualità è troppo elevata e la quantità non è da meno. Per quanto riguarda, diciamo, discorsi sulle tendenze, sicuramente nel caso dei corti italiani ci sembra più, in generale, poi ci sono delle eccezioni ovviamente, più forte, più determinante l'interesse verso il reale, quindi il documentario. rispetto invece alle storie più di fiction. Però c'è anche un'interessante tendenza nel campo dell'animazione, anche specie in 3D. Bene. Senti, come l'hai strutturato questo festival, questa edizione? Quest'anno più o meno la formula è sempre la stessa, sì. Come si dice, formula che vince non si cambia, almeno per ora, e abbiamo sempre le sezioni competitive, che sono quella internazionale The Short Planet, quella nazionale Concorto, il concorso online corto.web che è arrivato alla nona edizione, anche quest'anno per il terzo anno consecutivo con Fastweb, che ospiterà sul suo portale i 34 corti online che potranno essere votati fino a ottobre, e il concorso documentario extra large con 15 titoli molto interessanti e uno fuori concorso di Corso Salani, che ritorna anche quest'anno, come dire, a chiudere l'omaggio che avevamo iniziato lo scorso anno. Bene. E poi ovviamente il concorso regionale Videorom con la Mediateca Roma e panoramiche, retrospettive di cui ho già parlato, e eventi speciali. Bene. Allora, ci ricordi luoghi e data? Sì, il luogo è il Cinema in Trastevere, sì. Ovviamente a Roma, dal 12 giugno al 18, quindi da venerdì domani al prossimo giovedì. Il sito? Il sito è www.arcipelagofilmfestival.org, c'è già il programma e quindi correte. Un abbraccio e in bocca al lupo, Stefano. Grazie, crepi, ciao. Buon lavoro. Ciao, ciao. Stefano Martina, direttore della 17ª edizione del Festival di Cortometraggi e Nuove Immagini Arcipelago. Roma, 12-18 giugno. E questo è Visionari su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza ogni giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta potete consultarla sul sito www.ondarossa.info. Andiamo avanti con gli ospiti. Pomeriggio a Luca Evangelisti, direttore della quarta edizione di Incontri Cinematografici Stresa dal 17 al 21 giugno. Eccoci qui. Sì, buon pomeriggio. Tutto bene? Sì, tutto bene. Abbiamo avuto la conferenza stampa ieri mattina, adesso cominciamo con la volata finale. Bene, com'è andata? Bene, devo dire bene. Abbiamo un riscontro che comincia a crescere, comincia a fermarsi. Devo dire che, insomma, cominciano a vedersi i frutti di questi 4 anni di lavoro. Allora, come è organizzato questa rassegna, questo festival? Allora, prima di tutto due parole sulla sostanza. Sì. Il festival non è un festival generalista, ma è un festival con delle tematiche ben precise. Sì, sì. Noi abbiamo fatto 3 edizioni come Incontri Cinematografici Italo-Svizzeri. Sì. Come dice il nome, appunto, le prime 3 edizioni erano centrate specificamente sul cinema di Italia e Svizzera, poi in coerenza con quelle che erano sempre state le nostre linee strategiche, a partire da questa 4ª edizione abbiamo cominciato a espanderci da altri paesi, un po', in un certo senso, un po' come nel risico, abbiamo cominciato a mettere le nostre bandierine, e quindi niente, quest'anno siamo allargati, abbiamo incluso il Belgio francofono, per cui la manifestazione si incentra tutta sul cinema indipendente di Italia, Svizzera e Belgio francofono. La rassegna si svolge in maniera tutto sommato abbastanza semplice, abbiamo una selezione principale equamente suddivisa fra i 3 paesi partecipanti, più ovviamente i vari eventi speciali, abbiamo proiezioni serali, proiezioni di mezzanotte, abbiamo aperitivi concerto, delle performance, reading, insomma abbiamo un programma decisamente ricco e variato per quest'anno. Che tocca anche altre arti oltre al cinema, insomma. Sì, assolutamente, questa è sempre stata una nostra caratteristica fin dal primo anno, avevamo inserito in programma dei reading, delle sonorizzazioni dal vivo, il secondo anno abbiamo fatto una rassegna di video arte sull'Isola Bella, una cosa che abbiamo ci è sempre piaciuto fare, perché pensiamo che comunque se vuoi fare una manifestazione di un certo tipo, limitarla al solo cinema, non dico che è un po' impoverente, però sicuramente più ricca così. Oh, ci saranno ospiti, quindi c'è la possibilità anche di incontrare, ascoltare e vedere di persona diversi artisti. Sì, assolutamente. Abbiamo appunto per quanto riguarda proprio le performance, già giovedì sera abbiamo una, non so come definirlo, una performance di musica contemporanea e poesia tenuto da Roberto Fricantoni degli Schiantos, che è stato anche nostro ospite, sì. Molto simpatico. Si chiama Ironi Contemporaneo, è una cosa che è inserita all'interno dell'evento di quella sera lì, che è la proiezione del film Beckett, che è stato poi in concorso a Locarno, sì, nel 2008, e a cui appunto ha partecipato come attore e come autore delle musiche proprio Roberto Fricantoni e Alessandro Mostacci, che lo accompagna a piano. Per cui abbiamo già questa prima performance giovedì. Poi, sempre a proposito di cose di questo tipo, gli altri giorni della settimana abbiamo fra le 18 e le 19:30 abbiamo questi aperitivi itineranti con anche qui sono abbastanza simili, si parla sempre di reading di poesia surreale con accompagnamento musicale dal vivo da parte il poeta Guido Catalano e il musicista Federico Sirianni, sono autori molto conosciuti a Torino, che appunto faranno questi aperitivi, queste performance itineranti, nel senso che si svolgono in vari luoghi della città di Stresa. E di registi? Di registi abbiamo, sicuramente la presenza principale è poi quella del Cigno d'Oro, del premio Cigno d'Oro, perché noi come festival assegniamo tutti gli anni un premio non competitivo a personalità del cinema italiano o autori emergenti. Mm-hmm. Il Cigno d'Oro di quest'anno, che assegniamo nella giornata di sabato alle ore 18:30, è Luca Mendruscolo e gli autori della serie TV Boris. Sì. Infatti uno degli eventi poi di questa manifestazione di quest'anno è appunto la proiezione di Mezzanotte, una specie di centone degli episodi della prima e della seconda serie di Boris, selezionati dal regista stesso, che culmineranno poi appunto nella giornata di sabato nella consegna del premio a Luca Mendruscolo, agli autori e anche a alcuni attori del cast, tra cui per ora sicuramente confermato Francesco Pannofino, con poi la proiezione del film Piovono Mucche, che è il primo ed unico ad oggi lungometraggio cinematografico di Luca Mendruscolo. Sì, sì, sì, sì. E poi altre cose, poi sicuramente vi segnalo, nella stessa giornata di sabato abbiamo anche il film Segreti e Sorelle, che è una produzione svizzera, per la precisione del Ticino, per cui abbiamo presente il regista Francesco Jost e l'attrice protagonista Lita Kravos. Mm-hmm. Anche se in realtà noi più che registi, più che attori, infatti è una nostra particolarità, noi andiamo più spesso a presentare i film i produttori dei film. Mm-hmm. Perché infatti poi la caratteristica principale del nostro festival, che è il vero cuore del nostro festival, è il fatto che prettamente incentrato sugli incontri professionali. Infatti il cuore pulsante di tutto il festival sono gli incontri professionali che si svolgono nel fine settimana, abbiamo tavole rotonde, seminari, presentazioni varie, che sono organizzate proprio al fine di promuovere contatti, coproduzioni, collaborazioni internazionali, alle quali appunto partecipano professionisti, fra cui soprattutto appunto i produttori. Mm-hmm. Infatti questo in un certo senso è una nostra caratteristica, il fatto che è molto più facile che i film vengono presentati dai produttori piuttosto che dai registi. Bene, allora in bocca al lupo a Luca Evangelisti e alla quarta edizione di Incontri Cinematografici di Stresa dal 17 al 21 giugno, e a risentirci presto. D'accordo, grazie a voi. Ciao Luca. Bene, con i festival è tutto, ora invece passiamo ai film in uscita. Massimo, buon pomeriggio. Ciao Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Eccoci qui con Piercarlo per parlare delle uscite, ma non solo, anche di film che magari non abbiamo segnalato, visto che tra l'altro la scorsa settimana non siamo riusciti a sentirci e che magari tenevi a sì. far presente. Beh, decisamente sì, perché ce ne sono. Ce n'è uno in particolare di quelle uscite nelle settimane passate che mi piaceva segnalare, anche perché si tratta, come al solito, di uno di quei film che la distribuzione italiana non aiuta molto. Mm-hmm. Sto parlando del documentario di Claudio Cipelletti, che non so se ancora si può trovare da qualche parte in qualche sala. Io so per certo che tornerà al Nuovo Cinema Aquila il 24 giugno. Mm-hmm. Due volte genitori. Abbiamo avuto ospite lui, sì, infatti. Io volevo appunto rimarcare il fatto di andarlo a vedere quando ci sarà la possibilità, è un documentario molto bello, un documentario tra l'altro di cui viene sottolineata l'originalità, cioè l'aver affrontato una tematica comunque difficile come l'omosessualità da una prospettiva che fino a questo momento il cinema aveva abbastanza ignorato, cioè quella del rapporto con i genitori. Sì. Che si viene a creare quindi tra questi ragazzi omosessuali e i loro genitori, che è poi un'originalità però particolare, perché in realtà questo è un aspetto poi centrale della vita di qualsiasi adolescente, di qualsiasi ragazzo, per quanto riguarda le questioni di identità, ma per un adolescente omosessuale è ovviamente un passo ancor più difficile, ancor più complicato. Ed è un film che tratta questo argomento con una leggerezza, con una capacità incredibile nell'evitare la retorica, perché era anche molto difficile scadere in questo. E allo stesso tempo però con un buon risultato nel dire le cose come stanno, cioè nel parlare anche un po' di quelli che sono certi stereotipi e certi luoghi comuni su questi argomenti che circolano nel nostro paese in particolar modo, ma insomma nel resto del mondo anche, insomma, sull'omosessualità e su chi vive in questa, tra virgolette, condizione, diciamo. Se ricordo bene, dovrebbe essere la prossima settimana il suo ritorno al Nuovo Cinema Aquila. Esatto, esattamente. Poi, non so se il 24, però l'avevo letto, insomma, mi era arrivata una mail. Sì. Mm-hmm. Il regista poi mi ha confermato che ci sarà una proiezione in particolare alla Camera dei Deputati, quindi almeno da un punto di vista formale, diciamo così, anche la politica per certi aspetti si interessa a questo genere di tematiche, insomma è già qualcosa, anche se insomma sembra un po' la solita facciata che viene po' messa in piedi, però insomma ci sono film che non hanno avuto questa fortuna. Mi viene da pensare proprio oggi, diciamo, a Come un uomo sulla terra, che era un film che parlava molto, diceva delle cose molto importanti sulla realtà dei flussi migratori tra Libia e Italia, ed è un film praticamente sconosciuto, perché non è stato fatto vedere per due giorni su internet, ovviamente ha fatto una trafila per alcune sale cinematografiche del paese, però insomma ovviamente la distribuzione italiana se n'è guardato bene, bene dal distributore. E nonostante questo devo dire che sta conoscendo una sua diffusione. Sì, è vero, ma soprattutto un bel successo. Io da quello che so, quelli che l'hanno visto vanno a rivederlo, fanno il classico passaparola, funziona, la gente va a vederlo. Quindi tra l'altro Andrea Segre è stato nostro ospite, con molto piacere. Io l'avevo visto il documentario al Festival di Salina e insomma presi contatto direttamente con lui, insomma è stato un piacere vederlo e parlare con lui. No, decisamente un film importante. Insomma, quello non ha avuto la proiezione alla Camera, quindi insomma qualcosa vorrà dire, però lasciamo stare, non è giornata per fare di questi discorsi. È giornata invece magari di parlare di Madonna, diciamo così. Mm-hmm. Dai, forza. Parliamo di una nuova uscita. Non ho visto. Tu non l'hai visto? Beh, è un peccato, non so se tu conosci Eugene Huff e Gogol Bordello, che sono poi gli autori della colonna sonora. No. Eugene Huff compariva anche in Ogni cosa è illuminata di Liv Schreiber. Ok. ha realizzato poi, è il protagonista di questo sacro e profano di esordio alla regia di Madonna, che dopo aver tentato per decenni di avere una carriera cinematografica e dopo numerosi fallimenti ha deciso di passare direttamente dietro la macchina da presa, di prodursi e farsi un film per conto suo. E l'ho fatto con questo sacro e profano, la storia di questi tre ragazzi che cercano di realizzare i loro sogni. Appunto c'è AK, che è il personaggio interpretato proprio da Eugene Hatz, che vuole fare il cantante, c'è Juliet che vuole fare la volontaria in Africa, ha questo sogno di diventare una volontaria in Africa, Holly al contrario che vuole inaugurare una carriera di importante ballerina classica. Mm-hmm. Però devono fare i conti con quella che è la realtà. La realtà è una realtà che chiede sempre un prezzo da pagare per i propri sogni. E quindi Eugene Hatz, che in questo film deve soddisfare le perversioni erotiche e masochiste di alcuni clienti per sopravvivere. Holly sfonda come lap dancer, Juliet lavora nella farmacia di un indiano immigrato particolarmente razzista e che ce l'ha a morte con l'Africa e con i bambini neri. Insomma, una situazione abbastanza paradossale in un film che vuole essere grottesco. Però anche un po' una favoletta in uno stile che è poi tipico poi di Madonna, non me ne vogliano i suoi fan, però è una cantante che ha fatto della commistione tra provocatorio e commerciale il suo successo, poi fondamentalmente. Eh sì, da subito, fin da subito. Ma assolutamente. Gli è andata bene nella musica, al cinema gli va un po' meno bene, nel senso che diventa un misto tra una pellicola cinica, però pretenziosa sostanzialmente. Ci sono dei dialoghi che vogliono essere filosofici sulla vita e sulle sue brutture, sul mondo, e in realtà poi risultano essere anche un po', insomma, didascalici e facili, cioè che il mondo sia brutto lo diciamo tutti e che ce ne rendiamo conto tutti, e possiamo dirlo anche in modo più colorito di come lo dica Madonna. Però lei, insomma, ci tiene a sottolineare questa cosa, appunto, da un lato questo aspetto, dall'altro invece la favoletta molto buonista anche che sacro e profano si rivela essere in certi passaggi. Nonostante questo, appunto, c'è Eugene Hatz, che già in Ogni cosa illuminata a me era piaciuto moltissimo, e qui è il vero mattatore. Senza di lui il film sarebbe decisamente pessimo, io di questo ne sono abbastanza convinto. Lui riesce a renderlo gradevole con questa sua verve da zingaro ucraino che se ne esce con i suoi bizzarri aneddoti, appunto ereditati dai suoi antenati ucraini, e la musica dei Gogol Bordello, che è poi la colonna sonora del film, che è travolgente. Quindi da quel punto di vista una scelta azzeccata, così come quella di far durare il film solo 80 minuti. Mm-hmm. Che è un vantaggio per questa pellicola decisamente. Però insomma, da Madonna ci si poteva aspettare di peggio, questo. Mm-hmm. È poco ma sicuro, insomma. Decisamente. Senti, a proposito di musica, per quanto riguarda le altre uscite, sì. Hai visto I Love Radio Rock? I Love Radio Rock no, non l'ho visto. Mi manca I Love Radio Rock, penso che lo recupererò. Piacevole. Infatti me lo immaginavo, ma era da un po' che io lo stavo puntando, solo che poi mi sono perso la proiezione stampa, quindi lo recupererò al cinema. Almeno per chi fosse interessato o non conosce affatto la realtà delle radio pirata internazionali che trasmettevano da acque internazionali, in quanto erano vietate in patria, in questo caso di una storica emittente inglese che trasmetteva dal largo. Esatto. Rischio proprio di essere affondata, ma nel vero senso del termine. Insomma, il rock si è diffuso anche e soprattutto grazie a queste realtà, perché poi le radio ufficiali, radio commerciali e di Stato, per queste emittenti il rock era era una cosa estranea, completamente estranea, insomma, il tempo dedicato a questo tipo di musica era veramente al minimo. Beh, diciamo, era un po' la situazione che viene descritta in Good Morning Vietnam, più o meno l'atteggiamento istituzionale era quello dei superiori di Robin Williams in quel film, cioè il rock era troppo scalmanato, era una musica poi troppo associata ai movimenti di controcultura giovanile per poter ricevere spazio. Dai, L'Opera di Rock mi dava l'impressione di essere una commedia, sì, ma che sapeva però puntare su certe. Quindi me lo confermo. Quindi sì, se ti capita vai. Recupererò, perfetto. E noi ci si sente, se tutto va bene, la prossima settimana. Assolutamente sì. Ah, una cosa, un flash rapidissimo d'agenzia. Evitate come la peste se avete. Io non sono stato un fan di Terminator, della saga di James Cameron, però li avevo visti i suoi primi due film. Ecco, se avete apprezzato quelli, non vi vedete né Terminator 3 né Terminator Salvation. Ah, proprio... vedi, ho fatto bene a saltarlo. Saltateli proprio come la peste, guarda, una cosa oscena. Allora, caro, un abbraccio e alla prossima. Un abbraccio a te e un saluto a tutti gli ascoltatori, Federico. Ciao. E ci siamo in chiusura, l'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15 sugli 87.900 e modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa con Visionari.